I topi e il gufo da favole dicendo e la fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi settembre 2007 Roma. Non bisogna creder mai di contar cose sublimi alla gente. Come vuoi che ognuno estimi ugualmente tutto ciò che tu dirai? Una prova assai sincera noi l'abbiamo in questa istoria che sembrar può inverosimile ed è vera. Abbattevano un pin, vecchio palazzo, asilo oscuro e tristo, a quell'uccello che da troppo è messagger sinistro. E dal suo vecchio tronco, rosicchiato dal tempo, insieme a molti altri inquilini, grassi, rotondi, uscirono, ma coi piè mozzi alcuni topolini. Il maledetto gufo avea col becco mutilate le bestie e le nutria di gran, di pan, di briciole, in casa con squisita cortesia. La brutta bestia in altre circostanze aveva veduto i topi prigionieri, se appena lo potevano dalla prigion scappare volentieri. Onde trovò il rimedio, man mano che ne pigliava sulla via, di romperne le gambe e poi con comodo mangiarli e così via. Non si voleva prendere l'affanno di mangiarli in un giorno, ed anzi il caso, oltre essere impossibile, poteva la salute esser di danno. Gli è segno dunque d'una previdenza che non si dà l'eguale, sto per dire, neppure in mezzo agli uomini. Pei topi fu una mezza provvidenza, che li serviva a tavola con tanta carità, che un cartesiano, per cui tutto non è che un meccanismo, doveva parer quel gufo un poco strano. Se non era ragion che consigliavalo ad ingrassar quei topi nella stia e a romperne le gambe, non so più la ragion che cosa sia. Ei pensava così. Poiché mangiarli non posso in una volta ed essi scappano, per pranzo di diman bisogna ch'io pensi a conservarli. Però, togliendo ai topolini i piedi, o saggio gufo, al caso tuo provvedi. Dite voi se Aristotele di suoi ragionava meglio di costui. Epilogo. Alla riva, così d'un'onda pura, la musa, nel linguaggio degli dèi, tradusse ciò che gli animali miei innanzi al cielo esprimono con la rozza favella di natura. Interprete di popoli diversi, io li feci parlar, come si vedono su una scena gli attori, entro i miei versi. Non c'è cosa nel mondo e in ogni sfera che non ragioni nella sua maniera. E se vi pare che parlino le cose più ch'io non sappia interpretar col canto, almen dato mi sia questo modesto vanto d'aver sgombrata la novella via. All'opra altri potran con abil mano e delle muse col favor gentile, con nuovi modi, ch'ho tentato invano, aggiungere splendor ed alto stile. Ma ben altri argomenti intanto a voi costringono la mente, che mentre questa mia musa innocente traversa l'acqua in piccioletta barca, Luigi, il gran monarca, pone fine all'ardue imprese che già stancaro i più famosi eroi. Se queste canterà musa più forte, il tempo insieme vincerà la morte. Fine della favola I topi e il gufo. Fine del libro undicesimo. Questa registrazione è di dominio pubblico.